Libia, i razzi di Haftar vicino all'ambasciata italiana, il caos diventa pericolo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Ankara has warned Libya's Khalifa Haftar against continuous attack on the capital Tripoli. Residential areas in the Libyan capital targeted by indiscriminate shelling. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16.07 in questo esatto istante, una nuova puntata, l'ultima della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, rigorosamente virtualmente, mentre di persona abbiamo Laura Faggin che è in assistenza e in regia ritroviamo Roberta Frisani. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp per commentare la lunga pagina di Nessun Luogo Lontano tutta dedicata alla Libia. Lo potete fare anche attraverso i social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, oppure, questo era Facebook, oppure Twitter. I due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Sono state ore molto concitate quelle per il teatro libico. Nelle ultimissime ore, giorni, settimane abbiamo assistito a una controffensiva da parte del governo di al-Sarraj, complice la spinta turca. Tutti i mezzi, gli uomini e soprattutto il supporto aereo ricevuto nelle ultime settimane stanno facendo guadagnare al fragile governo, adesso un po' meno fragile forse, le tante posizioni perse attorno a Tripoli, soprattutto ad ovest fino al confine con la Tunisia, a discapito del generale Haftar, che poco più di un anno fa aveva iniziato questa lunga cavalcata con l'intento di prendere la capitale. Lo stesso Haftar che pochi giorni fa si era dichiarato con una sorta di golpe virtuale, perché in realtà già gran parte del territorio è nelle sue mani, si era dichiarato governatore di tutta la Libia. Poi però è accaduto quello che tanti analisti temevano sarebbe potuto accadere, i tanti lanci su Tripoli. Ieri si era diffusa la notizia di una pioggia di razzi caduta sull'aeroporto di Misurata, che avrebbe lambito anche la base dove vi sono 300 militari italiani. In realtà pare che fosse semplicemente tra virgolette un deposito di carburante che era andato a fuoco. Dicevo però la goccia che forse potrebbe far traboccare il vaso: un recentissimo, poche ore fa, bombardamento molto fitto di razzi hanno lambito anche l'ambasciata italiana, hanno ferito 5 civili libici e forse davvero questo potrebbe essere un punto di non ritorno. Vi faremo un racconto che partirà come sempre dal campo, dal terreno, poi metteremo il grand'angolo, la grande analisi e poi avremo anche un esponente della politica italiana per cercare di capire se davvero è stato passato il segno o se ancora una volta la politica cercherà nell'attendismo e nella tessitura lunga e laboriosa una soluzione al conflitto libico. Questo è il tema di oggi, 349-238-6666. Roberta Frisani, come ogni giorno, andiamo a sfogliare i nostri dossier. Naturalmente il tutto sullo sfondo dell'Eurogruppo, l'avete sentito dal GR che si sta tenendo in queste ore. Naturalmente non ci occupiamo degli aspetti prettamente economico-finanziari. Quello che però è interessante per noi di Nessun Luogo è Lontano, e spero anche per voi, oltre agli aspetti economici, sono anche le nuove alleanze politiche che potranno scaturire dall'incontro di quest'oggi, dal MES, ma soprattutto anche l'idea, se vi sarà, di una nuova Europa più al servizio delle collettività e magari meno isolata e abbarbicata sulle singolarità e sulle individualità di alcuni stati che fino adesso hanno molto spesso detto la loro a discapito degli altri. Detto ciò, il primo dossier che vi sottopongo è molto interessante e arriva dal Wall Street Journal, che ha citato anonimi funzionari statunitensi. Giovedì, 4 batterie di missili terra-aria Patriot, che è un sistema missilistico di difesa da incursioni aeree, verranno smantellati da diverse strutture petrolifere saudite. In più anche alcune dozzine di militari statunitensi dispiegati proprio per la gestione di questi sistemi missilistici torneranno in patria. Oltre ai Patriot, due squadroni di caccia statunitensi hanno già lasciato la regione e si sussurra che i funzionari statunitensi siano in sostanza riconsiderando una riduzione della presenza della Marina americana proprio nel Golfo Persico. Secondo le analisi più autorevoli, questo ulteriore disimpegno o accenno di disimpegno rappresenterebbe l'idea che secondo gli Stati Uniti ormai Teheran e l'Iran non costituisce più una minaccia per gli interessi statunitensi nella regione. Sostanzialmente dopo la morte di Qasem Soleimani, dopo l'uccisione di Qasem Soleimani avvenuta a gennaio e l'epidemia di coronavirus con un governo retto da Rouhani sempre più fragile, sostanzialmente l'amministrazione statunitense non ritiene che in questo momento Teheran possa costituire una minaccia, e questo potrebbe portare a una riallocazione anche delle risorse militari in altri teatri. In Egitto, velocemente, dove si allunga la lista dei giovani che si affacciano sul mondo di internet tra i social, YouTube, Facebook, Twitter. Questa volta un noto youtuber, lo riferisce l'agenzia Dire, ha filmato il suo arresto, ha attivato una diretta proprio su YouTube mentre alcuni uomini, non meglio precisati, bussavano al suo appartamento. Il ragazzo spaventato si è finto in casa, ha chiesto chi fosse, c'è stata un'irruzione. Ebbene, il ragazzo è sparito. Questa è stata l'ultima immagine consegnata alla rete prima che finisse molto ragionevolmente in uno delle carceri egiziane, allungando così la lista delle persone arbitrariamente arrestate. Non ci stancheremo mai di ripetere che in questo momento l'Egitto non è certamente un paese né per giornalisti né per attivisti. Ci spostiamo in Israele perché alla mezzanotte di ieri è scaduto il mandato che il presidente Rivlin aveva concesso alla Knesset per esprimere un deputato che potesse raccogliere la maggioranza per formare il governo. Netanyahu è riuscito a raggruppare 72 seggi su un totale di 120, quindi l'incarico è stato assegnato proprio al leader del Likud e attuale premier ad interim. L'annuncio di Rivlin è stato preceduto poi dalla decisione della Corte Suprema di non dare luogo alle istanze che chiedevano di verificare la legittimità sia dell'intesa per un governo di emergenza nazionale a rotazione tra Netanyahu e Gantz, e sia sulla possibilità che un deputato incriminato potesse ricoprire la carica di premier. Dobbiamo infatti ricordare che Benjamin Netanyahu deve difendersi da quei capi d'accusa molto molto pesanti legati a vicende di corruzione. Intanto ci spostiamo in Siria, dove c'è un'altra vicenda in salsa elettorale che ha catturato la nostra attenzione. Per la seconda volta sono state rinviate le elezioni per il rinnovo del Parlamento. L'ha annunciato lo stesso presidente siriano Bashar al-Assad, che ha emesso un decreto col quale posticipa senza mezzi termini le elezioni al 19 luglio. La motivazione è piuttosto vaga, ma anche comprensibile. Misure preventive del governo contro il coronavirus. Si sarebbe dovuto votare il 13 aprile, ma già a marzo il voto era stato posticipato al 20 maggio. Si deve votare per l'Assemblea del Popolo Siriano, l'equivalente del nostro Parlamento, 250 membri in carica per 4 anni. Secondo i dati ufficiali, la Siria avrebbe registrato però 45 casi di infezioni da coronavirus e 3 morti. Da quel momento il governo siriano ha iniziato a allentare un attimo le misure di allontanamento sociale, di isolamento, ma le scuole e le università sono ancora chiuse, c'è un coprifuoco notturno tuttora vigente, e ci sono molti brontoli tra gli analisti e gli osservatori internazionali perché le elezioni in Siria non avvengono certamente in un clima ampiamente democratico. Il Foglio, a firma di Daniele Raneri proprio qualche giorno fa, rivelava una possibilità che Asma, la moglie del dittatore siriano Bashar al-Assad, potrebbe essere proprio la soluzione, come dire, una ripulitura di facciata, potrebbe essere il prossimo leader, la prossima leader che andrà a guidare il paese, cercando anche magari di risolvere alcune questioni ancora aperte con Mosca, che è il principale alleato di Bashar al-Assad. Questi nostri dossier internazionali, arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666. Fra pochissimo ve ne darò conto. Roberta Fisani, il racconto di quest'oggi inizia a noi così. Where both the Italian and the Turkish embassies are located. The Libyan Health Ministry says two security staff and one civilian were killed. The UN-recognized GNA government has been under attack by Haftar's militias since last year. avete sentito è il risultato dell'ennesimo attacco a suon di missili lanciato dal generale Khalifa Haftar, che questa volta è andato vicino, molto vicino, a suscitare indignazione, anzi l'ha suscitata e parecchio, da parte della comunità internazionale. Sono solo due le ambasciate presenti in questo momento a Tripoli, una è quella italiana, l'altra è quella turca. E poche ore fa quel bombardamento, che ha causato almeno 5 morti tra i residenti, ha sfiorato anche nella zona di Tripoli, proprio quella che è la zona dell'ambasciata turca e la residenza dell'ambasciatore in Italia. Sui vari profili Twitter ovviamente non sono mancate le prese di posizione per un attacco senza precedenti, che forse ha anche un significato politico. Tra pochissimo cercheremo un attimo di contestualizzarlo e capire esattamente se si tratta di un errore o di un salto di qualità da parte del generale Haftar. 349-238-6666, c'è qualcuno che torna su quello che è in corso in questo momento l'Eurogruppo. Virtualmente temo che anche dopo questo Eurogruppo uscirà rafforzato il patto franco-tedesco, in linea col patto di Aquisgrana, a farne le spese sarà l'Italia, così un ascoltatore. Pensiero maligno, c'è qualcuno che torna, esordisce così alla questione del Golfo Persico. Un aumento della tensione del Golfo e quindi del prezzo del petrolio aiuterebbe i petrolieri americani a stare a galla. Ritirare le truppe come invitare tanti nemici di Riyadh a battere un colpo. Così un ascoltatore che evidentemente teme attacchi alle postazioni petrolifere da parte dell'Iran, come abbiamo già visto Saudi Aramco, mi sto riferendo proprio a quell'attacco qualche mese fa. Qualcuno chiede cosa serve il Parlamento in Siria. Beh, è un'istituzione che in questo momento, con Bashar al-Assad e con la stampella russa, decisamente un'istituzione poco più che formale. E poi c'è qualcuno che, evidentemente ironicamente, punta il dito sul fatto che ci occupiamo di Libia. E vado a recuperare il messaggio. Detto ciò, perché è importante parlare di Libia? Perché in questo caos generato, in questa emergenza generata dal Covid-19, alcuni dossier stanno passando sicuramente in sordina, eppure sono molto molto importanti. Il futuro della Libia andrà a indirizzare le future dinamiche nell'intero Mediterraneo, e con la presenza, l'abbiamo ribadito più volte, della Turchia sempre più muscolare, sempre più presente appunto nel teatro libico, il rischio è che l'Italia vada a perdere posizioni di vantaggio e eventualmente anche a subirne dei contraccolpi economici. Partiamo da quella che è una prima analisi, anche piuttosto dettagliata, che, come dire, lascia presagire venti nefasti. Mustafa Feturi è un giornalista, analista libico, ha pubblicato poco tempo fa su Middle East Monitor un editoriale molto molto importante, che è un po' l'inizio di questo viaggio di Nessun Luogo è Lontano. È molto molto spietato, molto cinico e molto lucido nel dire sostanzialmente che la soluzione politica non serve a nulla. Lui libico dice ci vuole una soluzione militare, altrimenti il destino della Libia sarà quello dell'Iraq nel 2003. Sentite come spiega meglio questa dirompente teoria Mustafa Feturi. The reason I think there will be no military political solution. Penso che non ci sarà una soluzione politica, ma una soluzione militare. E sarà una soluzione militare, perché in questo momento c'è una coalizione di diverse milizie che appaiono e scompaiono all'interno del paese. E la maggior parte di questi gruppi sono criminali. Inoltre bisogna ricordare che prima del 2011 questi gruppi non avevano né potere né denaro e oggi giocano un ruolo effettivo nel decidere le questioni di Stato. Hanno soldi, hanno armi, hanno gente che li segue. Si sono infiltrati nelle istituzioni come il Tribunale di Tripoli, al punto che sono loro a decidere chi fa cosa, come e quando. Queste persone che hanno armi, soldi e potere non si arrenderanno facilmente a una soluzione politica. Quindi l'unico modo per costringerli a farlo è con l'uso della forza. Quello che sta succedendo in Libia è molto simile a quello che è successo in Iraq. Noi stiamo costruendo un paese, a quanto sembra. Abbiamo già dei partiti politici e la guerra finirà. E probabilmente avremo di nuovo uno Stato funzionante, ma non sarà uno Stato indipendente e funzionante, nemmeno ai livelli della Libia di Gheddafi. Avremo uno Stato che sarà molto simile all'Iraq, in cui la nuova Libia non riuscirà a utilizzare appieno le proprie risorse e le proprie potenzialità. e sarà aperta a interferenze esterne. Using its own capabilities and resources, it will always be open to foreign interferences. Lo spettro dell'Iraq del 2003, quell'Iraq ingovernabile, lasciato nel caos, un Iraq non padrone, e una Libia evidentemente nelle parole di Mustafa Feturi, non padrone delle proprie risorse, quelle petrolifere, quelle di gas, e pronto ad assorbire le ingerenze straniere. In parte è già così, ma immaginate un teatro come quello iracheno in cui nemmeno la parvenza di alcune istituzioni possa frenare gli appetiti stranieri. Ce la farà l'Italia ad avere quello stesso disincanto, quella stessa lucidità e anche malizia, forse rabbia, nella politica estera eventualmente, per gestire un teatro come questo? Queste le parole di Mustafa Feturi. Abbiamo messo innanzitutto il grandangolo per dare avvio a questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che sarà un viaggio, e il viaggio continua tra le strade di Tripoli con la voce di Nashra Bin Waiba, giornalista freelance, ricercatrice. Lavorava per la Libia Rarar TV. Quali sono le notizie sul campo dopo i bombardamenti di ieri sera? Sentite. Yeah, the bombings last night was very horrible because it targeted one of the most safest zones. Sì, i bombardamenti della scorsa notte sono stati orribili, molto pesanti, perché hanno colpito le zone di Tripoli considerate più sicure, Tariq al-Shat e Zawiyat al-Dahmani. Entrambe sono aree sicure. È qui che sorge la residenza dell'ambasciatore italiano, e anche l'ambasciata italiana è molto vicina, così come l'ambasciata turca. Quindi questo è stato uno dei pochissimi casi, se non l'unico, in cui queste zone sono state colpite dai bombardamenti. Ma queste zone non ospitano solo strutture molto importanti. Lì vicino sorge un parco che normalmente in una notte di Ramadan come quella di ieri è sempre affollato. Ieri non lo era a causa della quarantena imposta per l'epidemia da coronavirus, ma senza la quarantena ci sarebbero state sicuramente molte più vittime delle tre che sono morte ieri. Due delle vittime erano delle guardie della sicurezza in funzione intorno alle zone diplomatiche, ma la terza era un civile, e si trattava anche di una persona molto famosa a Tripoli. Si chiamava Munir al-Silini, aveva 33 anni ed era conosciuto perché era apparso nello show televisivo più seguito durante il Ramadan. Aveva una piccola attività in zona, riaperta grazie a una raccolta fondi lanciata dai media, ed era molto contento di essere riuscito a risollevarsi. Oggi, dopo la sua morte, le sue foto sono state affisse ovunque nel quartiere. Dato che parliamo di una zona diplomatica, considero il bombardamento di ieri molto insolito. E secondo me il significato che Haftar ha voluto attribuirgli è molto chiaro. Questa volta non sto mandando solo un messaggio ai libici, stavolta il messaggio è anche per gli stranieri presenti a Tripoli. L'ambasciata italiana e l'ambasciata turca sono le uniche rappresentanze diplomatiche in funzione a Tripoli. Un messaggio quindi rivolto dal generale ribelle Haftar non soltanto all'Italia ma anche alla Turchia, la prima impegnata soprattutto sul piano della diplomazia ma con un contingente di 300 uomini, un ospedale militare a Misurata. Se avremo il tempo vi porterò anche lì, altra zona calda, sempre calda. Ricordiamo Misurata è una città fondamentale, così come la sua tribù, i misuratini, e le milizie ad essa collegate giocano un ruolo fondamentale. Dicevo, un messaggio che arriva dritto all'Italia e alla Turchia, Turchia con dei contingenti, dei militari, dei mezzi che si stanno facendo sentire, stanno facendo pendere nuovamente l'ago della bilancia di questa strana e lunga guerra dalla parte di al-Sarraj. Dopo la voce di Nashra Bin Waiba, giornalista freelance, ricercatrice, lavorava in una TV libica molto nota, a quelli che sono i vostri commenti e i vostri messaggi, qualcuno punta dritto al nocciolo della cosa dicendo basterebbe la Cavour, che adesso può caricare anche gli F-35, fa riferimento alla nostra portaerei, per ridare il potere a Tripoli, scrive un ascoltatore, ma come sempre un governo debole con tutti in Europa e nel mondo preferisce perdere anche la Libia, che schifo, così un ascoltatore che sfoga la sua frustrazione. In quel paese, un'ascoltatrice, riferendosi alla Libia, funziona solo una dittatura, quindi non c'è soluzione politica, e fa eco qualcun altro, Marcello, se questo è lo scacchiere, fiato alle armi. Insomma, mi sembra di poter interpretare la media del polso di voi ascoltatori una posizione piuttosto belligerante. Ma è anche vero, come fa giustamente notare proprio uno di voi scrivendo sempre al 349-238-6666, l'intervento militare è uno strumento, non è una soluzione. Abbiamo visto che cosa significa andare a spostare i delicati equilibri libici, lo abbiamo visto con la caduta di Muammar Gheddafi. Il pugno duro, nel momento in cui non è più tale, fa riemergere tutte le tensioni, gli attriti che esistono fra le varie tribù, e quindi è evidente che, anche ammesso e concesso che un qualche intervento militare riportasse una temporanea calma e stabilità, poi riemergerebbero sicuramente tutte le diatribe fra le varie tribù. Torniamo agli aspetti, al significato di questo bombardamento. Lo ripetiamo, è probabilmente anche un messaggio politico che arriva da parte di Haftar all'Italia e sicuramente alla Turchia. Ma che cosa ci dice di Haftar? Un Haftar che sta battendo in ritirata dalla zona sud di Tripoli e dalla zona ovest di Tripoli. Forse si sente più debole, forse fa come quegli animali feriti che tentano di mordere. Sentite ancora Nashra bin Waiba. È una questione di equilibrio di potere, come in ogni conflitto. Questo conflitto per la conquista di Tripoli, iniziato nel 2019, non è ovviamente ancora finito, perché proprio questo bombardamento delle aree diplomatiche ci manda dei segnali molto importanti. Prima di tutto ci parla della base militare di Al-Watiya, una posizione molto strategica che si trova vicino Tripoli ed è l'ultimo baluardo per Haftar nella zona. Ci sono molti, molti segnali e informazioni che confermano come Haftar stia perdendo il controllo di questa zona della Libia nell'ovest e quindi sta cercando di inviare il messaggio che, nonostante questa sconfitta, lui è ancora parte in causa per qualsiasi soluzione politica. Vuole dimostrare di essere ancora forte. Di sicuro in questo momento, dopo tutte le posizioni che ha perso da Azawiya a Surman fino a Zuara e tutta la costa ovest al confine con la Tunisia, è indebolito, ma non è del tutto debole. E quindi vuole dimostrare che dovrà essere coinvolto in qualsiasi negoziato. Un altro elemento importante è che questo cambiamento negli obiettivi dei bombardamenti è dovuto al forte ed evidente contributo che la Turchia sta apportando a Tripoli e alle forze del governo di accordo nazionale. Questo è un punto critico. Sia la Turchia che l'Italia sono considerate paesi alleati dal governo di accordo nazionale, ma non sono uguali nel sostegno che stanno fornendo, perché ovviamente il sostegno armato della Turchia è più pericoloso per lui. Così Haftar vuole dimostrare che è ancora capace di colpire la Turchia e l'Italia proprio nel centro di Tripoli. Allo stesso tempo, però, ironicamente, il governo di accordo nazionale considera Irini, l'operazione per controllare le acque regionali della Libia, come un'operazione che penalizza solo Tripoli e chiude un occhio sui rifornimenti di armi che arrivano ad Haftar. Penso che il sostegno militare sia molto pericoloso su entrambi i fronti, sia che si tratti del governo di accordo nazionale o dell'esercito nazionale libico di Haftar. Penso che si debba trovare una soluzione politica adesso, perché in caso di una vittoria militare dell'una o dell'altra parte, ci troveremo di fronte ad altri problemi e non avremo risolto nulla. Side win by a military victory, it will be very complicated and another problem, it will not solve anything. Questa è la voce della collega libica Nashra bin Waiba, giornalista, freelance, ricercatrice, che tenta di leggere tra le righe rispetto a quello che è accaduto poche ore fa, bombardamenti nel cuore di Tripoli, in una delle zone considerate più sicure. Nel frattempo le agenzie battono una serie di messaggi che sono arrivati a Giuseppe Buccino Grimaldi, l'ambasciatore italiano proprio a Tripoli, di solidarietà ovviamente al premier Fayez al-Serraj, nonché da altre autorità internazionali. Le vostre voci invece, che arrivano al 349-238-6666, c'è qualcuno che sta scrivendo, e dal tenore nonché dall'immagine che trovo sul profilo, immagino sia libico: ci vuole un intervento militare limitato per fermare l'attacco di Haftar, ma noi ci crediamo profondamente in una soluzione politica, abbiamo le risorse umane per farlo, chi vuole aiutarci in quello dovrebbe parlare con noi, fare progetti con noi e non per noi, così un ascoltatore che va in maniera molto lucida e molto diretta a sottolineare quelle che sono state le grandi nevralgie, i grandi fallimenti di tutte le conferenze da Palermo a Berlino. Se non si parla anche con le singole tribù, se i libici sono tenuti fuori dai grandi giochi diplomatici e poi li si mette di fronte a fatto compiuto, è evidente che non vi sarà mai una unità di intenti. Unità di intenti c'è invece nel fare che cosa, Roberta Fisiani? Andiamo a sentire i mercati e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, in questa giornata in cui probabilmente in Europa si sta scrivendo una pagina importantissima, economico-finanziaria ma anche politica. C'è un altro dossier delicatissimo che ha attratto la nostra attenzione, perché poche ore fa, secondo quanto riferiscono alcuni giornalisti e analisti libici, quel bombardamento nel centro di Tripoli sarebbe stato anche un messaggio politico alla Turchia e all'Italia. Sarà davvero così? E nel caso, come l'Italia intende rispondere? Buongiorno e ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, al viceministro degli esteri Marina Seneri Sereni. Viceministro, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi, grazie del suo tempo. È d'accordo? È un messaggio politico? E se sì, come si risponde a un messaggio così arrogante, così forte, così violento? Ma intanto noi abbiamo risposto con una fermissima condanna, con la nostra più forte solidarietà al nostro ambasciatore che ha la residenza in quella zona. È un segno di arroganza, come lei diceva, ma è anche un po' un segno di debolezza. Il generale Haftar in queste ultime settimane ha subito delle sconfitte politiche, ma soprattutto ha subito delle sconfitte militari. E anche tra i suoi sostenitori comincia a sorteggiare un discreto malcontento. Complessivamente però noi dobbiamo dire, lo dicevamo quando sembrava Haftar invece il vantaggio sul piano militare, che non esiste una soluzione militare. Ecco, anche oggi in cui invece il GNA, con il sostegno in particolar modo della Turchia, ha riconquistato una certa maggiore agibilità su Tripoli e sulla Tripolitania, noi continuiamo a dire le stesse cose che dicevamo alcuni mesi fa, quando invece Haftar sembrava tra virgolette imbattibile. Non esiste la possibilità che una delle due parti abbia il sopravvento sull'altra e riesca a governare la Libia, e non esiste per quanto ci riguarda nemmeno l'ipotesi della partizione della Libia. Sì. Per cui continuiamo a lavorare con tutti i partner possibili, a dire a tutti la stessa cosa: l'Italia ha un'agenda sola. Noi diciamo a tutti che bisogna fermare questo conflitto armato, bisogna riprendere il dialogo politico da dove si era interrotto, cioè dalla conferenza di Berlino. E io credo che in queste ore, nonostante tutto e nonostante drammaticamente il pericolo del Covid, che certamente in Libia avrebbe bisogno di una situazione diversa per essere contrastato e controllato, nonostante tutto in questo momento diversi interlocutori della comunità internazionale si stanno interrogando se non sia veramente venuto il momento di dire basta a chi invece sta alimentando questo conflitto. La voce che state ascoltando è quella del viceministro degli esteri Marina Sereni, che ribadisce ancora una volta che l'opzione militare non è una soluzione, ma certamente può essere uno strumento. È l'ipotesi, anzi la tesi ormai, la realtà abbracciata dalla Turchia, che sta facendo volgere le sorti, almeno sul terreno, quelle belliche, a favore di al-Serraj. Non c'è il rischio, viceministro Sereni, che a un certo punto, quando e se al-Serraj, il governo riconosciuto di Tripoli dalla comunità internazionale, riguadagnerà posizioni e garantirà stabilità, la Turchia vada a battere cassa e a ottenere già cose in più di quelle che ha ottenute? Sto pensando all'accordo marittimo. Si sta giocando in quel territorio, si sta giocando una guerra di soggetti anche esterni alla Libia, che però non aiuta i libici a trovare la loro strada. Noi per questo dico, l'Italia insieme all'Unione Europea, insieme alle Nazioni Unite, ha un'unica parola in questa vicenda. Noi siamo consapevoli che c'è una dinamica regionale è molto drammatica, molto difficile, la Turchia per un verso, ma anche l'Egitto e gli Emirati dall'altro, e quindi siamo necessariamente impegnati, ci sentiamo moralmente e politicamente impegnati a dire fermiamoci qui e ridiamo la parola alla politica. C'è anche una dinamica interna al governo, diciamo che c'è una dialettica, ecco, interna alle autorità libiche, c'è una dialettica tra il presidente Serraj e il capo della Banca Centrale Libica, c'è una dialettica interna appunto anche alle autorità riconosciute del GNA. Noi continuiamo a riconoscere questo governo, che è riconosciuto internazionalmente dalle Nazioni Unite. Al tempo stesso diciamo a loro, lo abbiamo detto anche in questi giorni con molta insistenza, che la nostra operazione navale, l'operazione Irini, che non sarà solo navale, è un'operazione spaziale. Ancora oggi ho visto gli italiani, il presidente Serraj, di prendere il tema, sì. Noi vogliamo essere molto chiari su questo, è una missione finalizzata all'embargo sulle armi, non all'embargo solo nei confronti di una parte. Però è quello che, chiedo scusa se la interrompo, Vice Ministro Sereni, Serraj punta il dito proprio su questo. È quello che temono le autorità di Tripoli. Noi abbiamo spiegato chiaramente quali sono le ragioni, anche in colloqui diciamo così diretti con le autorità Tripoli, quali sono le ragioni per le quali l'Unione Europea ha deciso di concentrare la presenza navale sulla costa orientale, ma abbiamo chiarito anche che non sarà solo navale la missione, avremo a disposizione anche strumenti aerei per monitorare l'insieme dei movimenti sul territorio, quindi anche i movimenti terrestri, e siamo assolutamente convinti che avendo noi il comando di questa missione, che quando questa missione sarà operativa sarà in grado di essere equilibrata, bilanciata e imparziale nei confronti di entrambi i fronti. Secondo lei, Vice Ministro, non manca una stampella a questa missione? Anche il controllo aereo sicuramente può essere utile, però la maggior parte dei rifornimenti militari arrivano via terra. Io non credo che l'Egitto Il controllo aereo serve esattamente per monitorare i movimenti via terra. Lei sa che siamo dentro una risoluzione delle Nazioni Unite, la risoluzione delle Nazioni Unite è in fase di rinnovo, si dovrà rinnovare a giugno, c'è una dinamica all'interno del Consiglio di Sicurezza, noi stiamo parlando con tutti i partner, oggi ho visto che il Presidente Conte ha affrontato questo tema anche con i russi, che non è un mistero abbiano sostenuto finora Haftar, non è un mistero che ci siano dei mercenari russi in territorio libico, così come non è un mistero che ci sono mercenari di altre nazionalità dall'altra parte, ma noi dobbiamo, proprio perché vediamo il rischio che questo conflitto renda la Libia uno stato fallito, e proprio perché è troppo vicino a casa nostra per noi occuparcene, perché significa immigrazione, ma significa anche terrorismo, in questo momento significa salute, tutela della salute, significa stabilità del Mediterraneo, significa interessi in campo energetico. Questa complessità riguarda tutti quanti, ovviamente non riguarda solo l'Italia. L'Europa ha finalmente conquistato una posizione unitaria insieme alle Nazioni Unite, e io penso che noi nelle prossime settimane, nel rendere operativa la missione Irini, sapremo tranquillizzare, ecco, le preoccupazioni, sapremo dare una risposta alle preoccupazioni del GNA, ma contemporaneamente anche portare un contributo e far pendere un po' la bilancia dalla parte della cessazione delle ostilità, che è il primo step per riprendere il dialogo a Ginevra. Sì, con noi il Vice Ministro degli Esteri Marina Sereni, che sta rispondendo a un po' di dubbi che abbiamo. Ne sottopongo un altro: quando lei dice la missione aerea e navale Irini potrebbe anche monitorare, però monitorare non vuol dire necessariamente andare a fermare i convogli militari. Io sto pensando a quelli egiziani che valicano al Sallum e si trovano già in territorio libico, lì diventa forse difficile, no? Al monitoraggio seguono dei meccanismi di sanzione, ovviamente. Non è solo un monitoraggio, è un monitoraggio finalizzato a sanzionare chi si rende responsabile del traffico di armi. D'altra parte, guardi, non c'è uno strumento più forte per poter continuare a dire noi stiamo lavorando sul piano politico, diplomatico, sul piano della cooperazione, abbiamo continuato a dialogare con tutti, sempre dicendo a tutti tutti la stessa cosa, e quindi evitando di dire agli uni e agli altri quello che volevano tutti di dire. Ora però la situazione è molto peggiorata sul terreno, l'emergenza del Covid ha portato in qualche misura le parti a ritenere che il mondo fosse sufficientemente distratto e si potesse continuare a fare la guerra. Questa situazione è insostenibile, così come è insostenibile il blocco dei pozzi petroliferi. Su questo, diciamo, ha completamente ragione il presidente Sarraj. Bisogna che si riprenda l'attività di estrazione del petrolio, bisogna dare una risposta alla popolazione libica che in questo momento è in grande difficoltà. E noi faremo la nostra parte, non da soli, certamente non da soli. Ecco, Vice Ministro, l'ultima domanda, però io direi, se ha tempo, pazienza di attendere veramente pochi secondi, sentiamo la viabilità e poi ho le ultimissime due domande per lei. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Continuiamo a esplorare col Vice Ministro degli Esteri Marina Sereni quelle che sono anche le possibilità del futuro del quadro libico. Vice Ministro Sereni, lei prima faceva riferimento alla improvvida e benefica chiusura da parte di Haftar dell'industria petrolifera libica. Come si fa a farla riprendere se non si vuole usare lo strumento della forza? Inutile imporre sanzioni ad Haftar, se le autoimposte praticamente. Interrompendo. Lei sa che a Berlino i basket, diciamo, i temi che erano stati messi a fuoco erano tre: le riforme politiche, diciamo così, le riforme economiche e il tema della sicurezza. Sul tema della sicurezza si è andati abbastanza avanti, c'erano dei punti condivisi dalle due parti e poi, diciamo, invece c'è stata una riesplosione del conflitto e quindi quel dialogo si è interrotto. Il secondo tema molto importante, che forse può far trovare un compromesso, è il tema delle riforme economiche, perché in questa situazione ci sono almeno due questioni che sono evidentissime. Uno è l'esistenza di due banche centrali, e non esiste un paese che possa avere due banche centrali, e l'altro è il tema dell'uso delle risorse del petrolio. Quindi una delle questioni che la Cirenaica pone nei confronti dell'autorità di Tripoli è l'uso delle risorse, un uso più equilibrato delle risorse nella distribuzione tra le due, poi sono più di due come sanno, ci sono tante altre realtà in Libia, ma insomma tra le due aree principali della Libia. Quindi c'è un terreno di compromesso possibile. Il terreno di compromesso possibile è aprire insieme al track della sicurezza, insieme alla discussione sul cessate il fuoco, aprire anche il tema delle riforme economiche e trovare delle garanzie, dare delle garanzie affinché le risorse disponibili attraverso l'estrazione del petrolio vengano distribuite in modo trasparente e in modo equilibrato tra le diverse realtà del territorio libico. Sì, però Vice Ministro, al momento è Haftar che ha chiuso i rubinetti e non c'è modo di farglieli riaprire, quindi se non con l'uso della forza, credo. Avrà, anche il Cirenaica mi sembra che si sia aperto una discussione. Io ho visto, noi abbiamo, diciamo, espresso un forte sconcerto quando il generale Haftar si è autoproclamato capo della Libia, ma nelle stesse ore il presidente del Parlamento di Tobruk ha presentato una proposta. Quindi c'è una dinamica, mi sembra di vedere. Voglio essere ottimista a tutti i costi, perché in questo momento in Libia è difficile essere ottimisti, ma è anche evidente che la difficoltà militare che sta attraversando sul piano militare il generale Haftar dopo oltre un anno dall'offensiva che era stata lanciata con l'idea che in pochi giorni si concludesse, questa difficoltà oggi pare fonda anche ai suoi sostenitori internamente alla Libia ed esternamente alla Libia la necessità di una riflessione. Quindi io vedo in questo momento ci possano essere degli spazi, e noi lavoreremo come europei, come gli Stati Uniti, a livello di Nazioni Unite e ovviamente anche con gli altri partner, dalla Russia, dalla Turchia, per cercare di diciamo far prevalere questa idea che si possa fare un passo oltre la guerra, anche perché la guerra ha durato tantissimo tempo e alla fine ha portato solo discussione e anche, diciamo, non solo i lutti tra le persone, ma anche un impoverimento terribile della popolazione. E su questo non c'è dubbio. L'ultimissima domanda, e le prego di darmi una risposta telegrafica, se può, Vice Ministro. Lo ricordo, stiamo chiacchierando con Marina Sereni, Vice Ministro degli Esteri del governo italiano. Non c'è il rischio che una volta che Serraj si rafforzi nuovamente, l'Italia possa cadere nella trappola del ricatto della leva dei migranti, che a un certo punto qualcuno apre i rubinetti, come era solito fare Muammar Gheddafi, come hanno fatto tante milizie nel tempo, e ci si ritrovi a gestire nuove emergenze di sbarchi? Lei crede che i rapporti che abbiamo con i libici e con il Serraj siano di ferro e garantiranno totale fiducia da questo punto di vista? Ma noi abbiamo posto all'autorità libica l'esigenza di un nuovo memorandum per la gestione dell'emergenza del traffico degli esseri umani. Su questo ci era stata data una disponibilità, poi ovviamente la guerra ha impedito che si concludesse il nuovo memorandum, ma è un tema sul quale noi come Italia stiamo continuando a lavorare e poniamo le nostre condizioni. È chiaro che questo una delle ragioni strategiche per cui dobbiamo avere un'attenzione particolarissima e strategica. Grazie mille al Vice Ministro degli Esteri, Marina Sereni, buona giornata e buon lavoro, Vice Ministro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Un po' di messaggi che arrivano al 349-238-6666, ma l'ONU sta sempre a guardare, così un'ascoltatrice. I droni da sorveglianza NATO basati a Sigonella potrebbero monitorare anche i convogli terrestri, è una questione di volontà, non di capacità. Io aggiungerei, gentile ascoltatore, che sono un po' perplesso sull'utilizzo del meccanismo delle sanzioni. Se voi immaginate, per esempio, dei voli militari emiratini che atterrano in Egitto, magari nel sud dell'Egitto, e poi via terra si spostano attraverso appunto l'entroterra per poi arrivare sulla costa libica, io dubito che anche una missione di monitoraggio possa realmente fermare quell'aspetto di linfa vitale militare che tanti attori esterni stanno dando ad Haftar. Certo, è vero anche che in questo momento la Turchia in Libia ha messo la quinta, e come ricordava il Vice Ministro Sereni, non ci sono soltanto i mercenari della Wagner russi, 1200 secondo gli ultimi documenti resi pubblici dalle Nazioni Unite, ma ci sono anche almeno un paio di migliaia di siriani ottomani che combattono alla stregua esattamente di mercenari, con stipendi che arrivano a qualche migliaio di dollari, passati da poche centinaia a migliaia, hanno lasciato il teatro siriano per andare a combattere in Libia. Quindi situazione davvero davvero molto molto complessa. Ci sono un po' di messaggi che stigmatizzano la politica italiana, la politica estera, questo attendismo che evidentemente non piace ad alcuni di voi che state scrivendo al 349-238-6666. Siccome qualcuno mi ha sollecitato sulla situazione Covid-19, lo sentivate dalle parole del Vice Ministro, c'è il Covid-19, c'è il coronavirus anche in Libia, questo complica molto le cose. Vi faccio sentire velocemente la voce di Sacha Petiot, che è capo missione di MSF per la Libia, ci ha raccontato che cosa accade a Tripoli. MSF is deeply concerned about the deterioration of the humanitarian situation in Libya caused by the escalation of the conflict. Nelle parole di Sacha Petiot, che abbiamo sentito davvero pochi minuti fa, lui è capo missione di Medici Senza Frontiere per la Libia, conosce molto bene Tripoli, ma soprattutto Misurata, dove è di solito di base, esprime tutta la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria, escalation del conflitto, arrivo dell'epidemia di coronavirus e continui bombardamenti che anche MSF denuncia, che sono iniziati quando è iniziato proprio l'attacco del generale Haftar. Era l'aprile del 2019, se non erro il 4 aprile, nel giro di pochi giorni, secondo il generale ribelle, Tripoli sarebbe caduta. Non è accaduto questo. Come sta impattando? Sacha Petiot ci ha detto che il Covid-19 impatta anche sulla risposta tardiva al Covid-19. Immaginate dover andare a fare emergenze o terapie intensive proprio mentre piovono le bombe. In più la chiusura dei confini impedisce alle persone di andare all'estero per cercare cure e assistenze mediche, e sto pensando per esempio alla Tunisia. La popolazione vulnerabile, sfollati interni e migranti richiedenti asilo non stanno più ricevendo alcun aiuto anche dalle agenzie umanitarie, e siamo un po' alle solite: lasciare bombe inesplose vicino all'Italia sicuramente non giova alla stabilità dell'intero Mediterraneo. 349-238-6666, a ogni notizia di recrudescenza della guerra in Libia corrisponde un aumento degli arrivi di clandestini in Italia. Così Romolo, ma mi sento di dissentire, non è vero. Se andiamo a vedere i numeri, gli sbarchi erano molto molto maggiori quando non c'era questo livello di conflitto. Haftar o Serraj, che differenza fa? Il petrolio e il gas lo paghiamo a chiunque. Le imprese italiane continueranno a lavorare in Libia, che si scannino pure, scrive così testualmente un ascoltatore. L'importante è che si tengano i neri. Allora io, per carità, vi prego, potete esprimere tutto quello che volete, ma gradirei che vi fosse anche una compostezza e una sobrietà nei messaggi che voi mandate. Certo, Shu, questo l'ascoltatore che scrive questa cosa, non nasconde la sua cinica visione di una Libia che sostanzialmente deve tenersi i migranti, far lavorare le imprese italiane per darci il petrolio, se poi si possono scannare fra di loro lo facciano pure. Mi sembra nemmeno cinica, mi sembra una visione violenta, anche un po' fuori dalla realtà, perché sa, il fatto che si scannino le tribù libiche fra loro non garantisce pace e stabilità, non garantisce estrazione del petrolio e non garantisce nemmeno che qualche nave di disperati riesca a salpare, ad arrivare anche sulle coste italiane. Siamo in chiusura, ma vi aggiungo, più per nota di credito, come dire, in salsa giudiziaria, che il 5 maggio, nella sua relazione davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la procuratrice della Corte Penale Internazionale, Fatou Ben Souda, ha annunciato una cosa molto importante. Il suo ufficio sta lavorando alla richiesta di nuovi mandati d'arresto per crimini commessi in Libia. L'elevato numero di vittime civili causate dai bombardamenti aerei, sparizioni forzate, torture e detenzioni che vengono commessi indiscriminatamente, scusatemi, contro uomini e bambini. Si punta il dito sulle carceri di Al-Khawifa e Gernada, est del paese, Mitiga a Tripoli, sostanzialmente sia da una parte che dall'altra. Siamo quasi in chiusura, vi daremo conto anche di questo dossier a partire naturalmente dalla settimana prossima. Adesso Roberta Fisani, una sola parola. Che mi permette di ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto e aver animato il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano, tutta la squadra che ha lavorato alacremente, sempre in smart working anche questa volta. Domani ore 10 il meglio di, e poi lunedì alle 16 di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.